oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. Buongiorno. Buongiorno Francesca e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Buongiorno al professor Campione. Buondì. Allora, dove eravamo rimasti? Che ci amavamo tanto. Ah, ecco. Stavamo parlando d'amore, sì, come dico io. E Francesco ci aveva dato, ovviamente risottolineando che ogni sentimento d'amore è personale, è personalizzato, è unico e quant'altro. Però insomma avevamo iniziato a parlare delle tre modalità che vengono messe in linea generale in atto quando si ama qualcuno. Vogliamo riassumere proprio in breve, breve, breve, breve, perché così brevemente riprendiamo il filo. Riassumiamo brevemente. Allora, c'è un tipo di amore che possiamo dire, chiamare amore di attaccamento. Quando una persona ti fa stare molto bene, tu ti ci attacchi. Vuoi stare sempre con quella lì. La cozza, l'amore cozza. L'amore cozza. Poi c'è un amore che chiameremo di assimilazione, come se tu l'altro te lo portassi dentro e lo assimilassi a te, te lo mangiassi, lo fai diventare una parte di te. È un altro tipo di amore, è un tipo d'amore che sopporta ovviamente la lontananza di più, perché tu ce l'hai dentro, l'altro, anche se non è lì, mentre quel primo non sopporta la lontananza, quello di attaccamento. Poi c'è un amore di approssimazione, e che è l'amore di chi si lega a un altro per farlo felice e gli si avvicina per portargli qualcosa che lo faccia felice. Ecco, e anche questo sopporta la lontananza. Questo un po' meno, qui quello che domina, mentre in questo senso intendevo sopporta la lontananza, che se la felicità dell'altro è avere dei momenti di lontananza, certo, lo lascio in pace. Lo lascio in questo senso, certo, intendevo. Certo, in questo senso sì. Ecco. E adesso andiamo a guardare invece quali sono i limiti di questi tre approcci, perché ognuno di essi ha dei limiti che poi portano a delle storture, anche a delle a dei focus esagerati, a delle lenti di ingrandimento troppo forti. Perché se non avessero limiti, se non ci fossero storture, sarebbero tutti felici e contenti. Esatto. Qualunque tipo d'amore abbiano intrecciato con l'altro. In realtà, come dire, non c'è niente di più complesso e più difficile da far funzionare di un amore. Ah, ti fermo un secondo solo, scusami, perché vorrei ricordare i numeri di riferimento per partecipare con noi, perché oltretutto stiamo affrontando, come dicevo l'altra volta, un argomento che, voglio dire, riguarda tutti e tutte, e chiunque ha qualcosa da dire, dalla cosa più semplice alla cosa più complessa, alla storia da raccontare, a una sensazione e quant'altro. E quindi vi invitiamo ad aiutarci a portare avanti questa trasmissione, questa riflessione, o chiamando allo 051 34 64 58 oppure mandandoci un SMS o un WhatsApp al 333 180 94 94. Scusa, parentesi. Contatti. No, è giusto, è giusto. Persino l'odio, secondo alcuni, deriva dall'amore. Anche questa va introdotta, piano piano. Allora, dicevamo. E viceversa. Bene. Può essere possibile. Scusate, io stavo. Scusa? Viceversa può essere possibile. Avete detto anche l'odio deriva dall'amore. No. No, ok. No. Grazie, scusate. No, è una via obbligata. Dall'amore deriva l'odio. Dall'odio non può derivare l'amore. A posto, grazie. Ma adesso la spieghi questa, però. Sì, ve la spiego dopo. Va bene. Ve la spiego dopo, per ora la lascerei. La teniamoli appesa. La lascerei così lapidaria. Va bene. Lapidaria. Va bene. Così magari stimoliamo i nostri così ascoltatori. Sì, vediamo se li lapidiamo. A polemizzare. Dai. Ecco, i limiti. I limiti. Allora, il primo limite di ogni amore, qualunque sia la modalità, è legarsi a un altro che si lega in un altro modo. Questo è il primo vero limite. Cioè un limite che non è relativo al modo di legarsi, ma è relativo alla diversità sul modo di legarsi. Cioè se io voglio stare attaccata a te come una cozza e tu mi hai portato dentro, questo è un limite del nostro amore, perché io tendo a starti attaccato e tu tendi a dire, anche se ti stacchi è lo stesso, perché io ti ho dentro. Quindi è il limite dell'interazione di due approcci diversi. Il limite del diverso modo di amare. Questo è il primo limite dell'amore. Quello che rende, come dire, vulnerabili tutti gli amori. Quindi non è che si può dire che c'è un amore non vulnerabile, perché tu ti puoi purtroppo legare a un altro che si lega a te in un modo diverso. Questo è il primo tipo di vulnerabilità. Poi ci sono limiti che ineriscono, che appartengono a ciascun tipo di amore. Per esempio, se tu ti leghi a qualcuno che ti fa star bene per una cosa e ti fa stare malissimo per un'altra, sei fregato. Tu ti attacchi a uno che ti fa stare benissimo in certi momenti e in altri momenti ti fa stare malissimo. Tu non ti puoi staccare, ecco il limite di quell'amore, che tu sei attaccato. E quando dovresti staccarti, cioè cosa vuol dire? Che un altro limite dell'amore è quando prevale in qualunque tipo d'amore, quando non c'è equilibrio fra il grado di separazione e il grado di unione. Cioè tu, per stare bene con uno, devi essere in grado di attaccarti e, quando è il caso, di staccarti, no? Se tu hai un amore di attaccamento, sei poco in grado di staccarti, perché vuoi stare sempre con quello lì, il che vuol dire che resti attaccato anche quando ti fa male, anche nei momenti in cui non ti dà quello che ti dà invece nei momenti in cui, tanto ci è attaccato, ti fa star bene. E questo è uno dei limiti di questo tipo d'amore. L'altro limite di questo tipo d'amore è la strumentalità, cioè il fatto che tu ami l'altro in base all'effetto che ha su di te. Per cui, per esempio, quando tu cambi, non lo ami più. Basta che tu cambi che non lo ami più. Perché tu, i tuoi bisogni cambiano, cambiano i tuoi desideri, cambiano le tue tendenze, cambiano le tue esigenze, e quell'altro non corrisponde più. Tu non vuoi più stare attaccato a quello, ma vuoi stare attaccato a un altro. E qui c'è anche un gap iniziale, ovvero partire dal presupposto che nel quale spesso cadiamo, ovvero quello di pensare che entrambi non si cambi mai, che tutto rimanga fossilizzato alla situazione iniziale. Parlo delle caratteristiche delle due persone coinvolte. Brava, ed è quello che, come dire, nell'amore si esprime con quella espressione che si accompagna spesso alla espressione dell'amore generale, che è per sempre. Starò con te, ti amerò per sempre. Dici, ma se cambi, se divento un altro, come fai ad amarmi per sempre? Spero di non cambiare. Da questo punto di vista, come dire, è vero quello che dicono alcuni, che l'amore è conservatore. Chi ama è più conservatore di chi non ama. Dipende se è nutrito da un amore conservatore, certo, oppure no, perché certo. Se nell'amore prevede. No, ma adesso stiamo parlando però di questo tipo di amore. Ah, certo, va bene. Dell'amore okay. di attaccamento. Di attaccamento. Il quale okay. è uno degli amori che tendono a prevalere nella nostra cultura, perché la nostra cultura è una cultura che antropologicamente tende a far prevalere gli aspetti biologici della nostra vita, per cui l'attaccamento in realtà è qualcosa di biologico, cioè tu ti attacchi a chi, quando ti attacchi, ti dà una stimolazione positiva. C'è molto di corporeo, di fisico, di biologico in questo tipo di amore, no? Bene, direi che possiamo fare uno stacco musicale prima di passare no? al secondo tipo, così diamo tempo guarda. Intanto ai nostri ascoltatori e alle ascoltatrici di ragionare su quello che abbiamo appena detto e magari o intervenire. Di sragionare. O di sragionare, o di mettere in discussione, o di polemizzare. Dai, su. E chi più ne ha più ne metta. Jazzanova da K7 Recordings fra elettronica e jazz. Noi torniamo in diretta insieme ai due Franceschi per parlare d'amore. Arrivati ai limiti dell'amore di attaccamento. I limiti dell'amore di assimilazione. I limiti dell'amore di assimilazione, il limite vero dell'amore di assimilazione è che uno, quando si porta dentro un altro, lo fa diventare parte di sé, sì, praticamente fa tutto da sé. Non è detto che portandosi dentro un altro non lo trasformi rispetto a come realmente è. Questo è il limite ed è la ragione per cui questo tipo di amore è un amore che di solito non si basa sul conoscere l'altro, ma sul riconoscere l'altro. Cioè, in realtà tu qualcosa sull'altro glielo proietti fin dall'inizio, quando ti innamori di un altro e ti innamori di quel tipo d'amore. Cioè, praticamente ti innamori di quello che di te c'è nell'altro, quello che riconosci come tuo nell'altro. Una sorta di specchio, dici? Una sorta di specchio, è un riconoscimento. Infatti l'amore a prima vista è così, l'ho visto, quello era. Era uno che era inglese, che ne sa, non avrei mai... Hai visto quello e ti sei innamorato di quello. Cioè, che cosa ci hai visto? Ci hai visto qualcosa che nel guardare il mondo noi ci mettiamo qualcosa di nostro, cioè lo guardiamo dalla nostra prospettiva. E guardando un altro dalla nostra prospettiva ci possiamo vedere quello che ci vediamo dalla nostra prospettiva. E quando ce lo portiamo dentro, è l'altro così com'è o è l'altro come noi l'abbiamo sentito? Per esempio, sarà capitato a tutti di sentire il racconto di un amico che dice: sai, ho incontrato una ragazza, un ragazzo molto dolce, e così eccetera. E tu lo conosci e dici: ma quale dolce? Ma non l'ha visto questa dolcezza? No. L'ha sentito dolce. Per il suo modo di sentire, quello è dolce. Ma non è detto che corrisponda a quello che l'altro è. C'è anche molta gelosia delle volte. Può nascere una sorta di gelosia proprio. Sì, perché di base quando ci riferiscono di queste realtà è difficile che la risposta sia entusiasta, eh? È difficile. Ah, ti sei innamorato di quella. Ah, che bella realtà. Sì, no, ci può essere una gelosia di chi non riesce ad amare nessuno e, come dire, esprime un pochino la sua aggressività nei confronti di chi. Però spesso, come dire, quello che certe volte quello che ci colpisce è il fatto che chi ama non è realistico nella percezione dell'amato. Non è realistico neanche chi ama, secondo me, perché sì, chi ama non è realistico. Quando se ama di questo tipo di amore non è realistico. Quando si parla con una persona innamorata ed è molto insomma, per esperienza o anche per esperienza di amici, si parla sempre come se fosse l'amore più bello che poteva capitare unicamente a te e che è una cosa particolarissima da scriverci i film e i libri più belli, perché un amore così non esiste. Vabbè, questi però sono i tuoi amici, io e i miei amici non sono così. No, cioè... no, piano, così sono io. Così sono io. Siccome tu dicevi i miei amici. No, beh, certo, ma mi è capitato anche di paragonarmi con altri a sua volta. Posso citare uno scrittore che ha fatto, anzi, gli faccio anche pubblicità, Maurizio Gelli, Ponte dell'Ovo, un libro particolare dove lui descrive questa sua storia d'amore. Io l'ho preso da parte e gli ho detto: guarda, io sono felicissimo che tu gli abbia dedicato un libro, che tu stia vivendo una cosa eccezionale, sicuramente anche ben fatto e ben scritto, ma ti sei innamorato. Cioè, hai capito? Quindi... Certo, ma però ci sono quelli che parlano dell'amore, per esempio, come se parlassero di un piatto di pasta asciutta. Non tutti sono così. Cioè, parlano dell'amore come di qualcosa che soddisfa, come di qualcosa che gratifica, non come di qualcosa che chissà quale meravigliosa esperienza è, mistica più o meno, ma come qualcosa che assolutamente ha a che fare con i bisogni materiali. Quindi non sono innamorati. No, sono innamorati di un altro tipo di amore. Non sono innamorati. Attenzione, qui bisogna stare molto attenti, perché ciascuno, quando si identifica, ognuno ama a suo modo. e il suo modo di amare tende a scambiarlo, ed è una delle fonti dell'incomprensione umana, tende a scambiarlo per il vero amore. È quello che ho detto prima, solo il mio è il vero amore. Certo. Anche Dio c'è qualche problema, perché Dio è inconoscibile, non si sa chi cavolo ami. Quando ami Dio non si sa mai, potresti amare, infatti spesso Dio si trasforma in diavolo, nell'anticristo, in un essere distruttivo, però lui può, si ritira dal mondo, non si fa più trovare, si suicida, eccetera. però sai, e Dio può. E quindi andiamo al terzo tipo di amore. Perché terzo tipo d'amore, l'amore di approssimazione. Cioè, questi due tipi di amore, l'amore di attaccamento e l'amore di assimilazione, sono amori che si basano su due bisogni fondamentali dell'essere umano e quindi su due modi di concepire l'uomo, l'antropologia. Uh-huh. L'uomo materiale e l'uomo interiore. Per cui l'amore di attaccamento è l'amore materiale. Si attacca a chi ti fa star bene, lo si conosce, lo si prova e poi ci vuole stare con quello lì perché ti dà quello che ti dà. Quindi l'uomo materiale. L'uomo, l'amore di assimilazione invece è l'uomo interiore, cioè amare vorrebbe dire portarsi dentro l'altro, vorrebbe dire farlo diventare parte di sé. Amare vuol dire essere tutt'uno, amare vuol dire che tu sei me e io sono te. Vuol dire qualcosa di più interiore, che corrisponde a un'altra dimensione della nostra vita, che è la dimensione interna, interiore. L'interiorità è un amore interiore, un amore di dentro. Quell'altro invece è un amore di fuori, no? Un amore esterno. Poi c'è il terzo tipo d'amore, è l'amore in mezzo, tra me e te. Non è né dentro né fuori, ma è tra noi due. Cioè io, prima di incontrarti, ero molto materiale o molto interiore. Quando ti incontro, concepisco il desiderio di farti felice e potrei essere materiale o interiore, ma la cosa più importante è se riesco a farti felice oppure no. È un altro tipo di amore, il che vuol dire che poi in questo tipo di amore quali sono i limiti di questo tipo d'amore? I limiti degli altri due li abbiamo detti. Sì. Il limite dell'amore di attaccamento è il fatto che quando si cambia tutto finisce. Il limite dell'amore di assimilazione è che certe volte tu scopri che quell'altro ti ha portato dentro, ma non ti riconosci in quello che si è portato dentro di te. E appena non ti riconosci, scopri. Cioè il fatto di non essere realistici. Certo. Il limite dell'amore di desiderio, cioè di approssimazione all'altro per farlo felice, è praticamente il fatto che tu non sai mai prima che cosa farà felice l'altro. Cioè il limite è il fatto che tu sei sempre, in qualche modo, per sapere se veramente stai riuscendo ad amare, dipendi dall'altro. Il che, se riflettiamo, è al tempo stesso il limite e la grandezza di questo tipo d'amore. Cioè tu non puoi più fare tutto da te. Mentre nell'amore certo. Negli altri due tipi di amore tu puoi fare tutto da te, puoi dire mi soddisfa, ci sto. Quell'altro dentro di me lo sento bene, ci sto. In quest'altro caso non puoi farlo. Che dice, gli ho fatto un regalo, di... dice, ma però ha detto che non gli è piaciuto. Cioè, certo. Allora, io tendo a pensare che in definitiva questo tipo d'amore sia un tipo d'amore più maturo, cioè meno egocentrico in definitiva, meno centrato su di sé, ma che si porta dietro però la possibilità di amare materiale e interiore. E quindi siccome arriveremo poi al fatto che qualsiasi tipo di amore poi finisce, e al di là del ciclo naturale, diciamo, ma anche perché subentrano, appunto, a causa dei limiti, subentrano poi quelle che io definisco storture, ma insomma, crisi. Noi sollecitiamo i nostri ascoltatori a interagire con noi per raccontarci loro momenti di crisi, in modo da, appunto, sollecitarti a ragionare su come poi andare oltre la crisi, perché questo sempre rimane sempre il nostro obiettivo per cui abbiamo inventato questa trasmissione. Quindi ricordo i numeri, o ricordiamo i numeri, dai Willy. 051 34 6 4 5 8, citando un poeta spagnolo di cui non ricordo il nome, ma che ha detto una frase che ho fatto del mio cuore: le tecniche in amore servono soltanto quando non si è innamorati. A te, Francesca. Per il numero del cellulare. Ah, ecco, scusa. Il numero del cellulare. Più frase tipica sull'amore. Oddio, non ce l'ho la citazione. Ah, male. Non ce l'ho pronta, scusate. Un proverbio, posso dire un proverbio? Chi fa da sé fa per tre. No? No, l'amore non è un brodo di ceci. Bello. Ah, beh. Bello. Su questo. Manca il numero. Il numero, allora, SMS o WhatsApp 333 180 94 94. Musica, pubblicità, poi torniamo in diretta. State io con comunque, noi. Comunque mi vengono in mente un paio di canzoni degli Stato Sociale come ci musica. waits for no one. Use it wisely, not wastefully. Live not dangerously or aimlessly. For if you do, you'll disgrace your chi. Living your life with distaste in the guise of being carefree. In the name of being free. Better call on that God you believe to free you from the clutches of those that would have you perpetuate millennium slavery. Of those that would have you perpetuate millennium slavery. Hold on, slow down. Hold on, slow down. Hold on, slow down. Before you let them dumb you down now. I'll be the crouching tiger, you be the hidden dragon. And while you're busy getting your swag on, I'll find you, sneak up behind you. Fuck you up with my nimble knowledge nunchucks. Make you sit down and learn life's lessons. Make you work hard to receive your blessings. And then I'll try to save you from the media's campaign to massacre your brain. Make you insane in the membrane. Feed you Armageddon-sized portions of disaster and pain. So your strength, past and soul are easier to claim for perilous gain. There's no one to blame but yourself for believing their treacherous messages. We all know how rough it is. We all know how tough it gets. Especially when you resist. You resist. Resist. Resist. Hold on, slow down. Hold on. Slow down. Hold on, slow down. Before you shut down. Before you melt down. I realize sometimes violence is necessary, particularly when predatory enemies seek to dictate your destiny, teach you watered-down history, make you blindly leap into false faith, into their cesspool for fools or governing ghouls. Use your gift of choice, listen to your own voice. I'm proud to MC, so allow me to speak. As you can see, I'm in too deep. 13 e 34 minuti, si ritorna in diretta. Torniamo insieme con Oltre la Crisi su Radio Città Fujiko e torniamo insieme a Giovanna, vero Francesca? Sì, esatto. Giovanna che ha risposto al nostro appello, ci sta aiutando a vivacizzare la nostra trasmissione e quindi io ti leggo subito il suo messaggio. Sarà che sto cucinando, ma credo che il mio modo di amare sia un mix dei tre tipi che hai appena citato. Come se fossero gli ingredienti di una ricetta, ne ho più dell'uno e meno dell'altro. Forse mi inganno? In realtà mi piacerebbe appartenere alla categoria dell'amore per approssimazione, più maturo, come ha detto il professore. La mia immaturità affettiva mi ha fatto tanto soffrire. Giovanna. Ecco, quindi Giovanna in realtà dice che in lei prevalgono, rispetto all'amore che lei vorrebbe che prevalesse, cioè l'amore di approssimazione, l'amore di desiderio, prevale uno degli altri due, o tutti gli altri, o tutti e due gli altri due. E questo l'ha fatta soffrire. Come si fa ad andare oltre questo? Cioè, questo è il punto cruciale della questione, no? Secondo me ci vogliono due fattori. Uno dipende da Giovanna, l'altro dipende dalle persone che incontra. Vai. Il fattore che dipende da Giovanna è che lei, appunto, faccia dei passi di maturazione, no? Cioè che valorizzi in sé gli aspetti che la portano più verso l'altro, che valorizzi, che vada in una direzione anti-egocentrica sempre di più, che cresca. Sì. D'accordo? Un lavoro su se stessa. Un lavoro su se stessa. Però, avendo riconosciuto il perché ne parla proprio, certo, lei direttamente. Certo. Quindi. Però se Giovanna fa quel lavoro lì e incontra tutte persone che la vogliono bambina, è fottuta. Non può riuscirci. Allora Giovanna ha bisogno di fare quel percorso, ma anche bisogno di incontrare persone che apprezzano il fatto che Giovanna va verso di loro non a mani vuote per farli felici e che non invece vogliano da Giovanna che sia bambina o che sia molto materiale o molto interiore. Quindi in definitiva ci vuole un po' di impegno su di sé e anche un po' di fortuna. Quella ci vuole sempre, come dire. È arrivato però anche un altro messaggio nel frattempo e dice: ciao, ascolto per la prima volta il vostro programma e sono letteralmente incollata allo stereo. Mi ritrovo tantissimo nei vari stadi dell'amore appena descritti, in particolare quando cambio io, cambiano i miei desideri e i miei bisogni, per cui si distorce la visione del rapporto e dell'altro. E poi c'è un gattino urlante. Spaventato, esatto. Hai reso. Certo, allora, diciamo che questo che descrive la nostra amica, deve essere un'amica. Sì. No, quello... Sì, si riferisce a sé, al femminile. Sì, al femminile. Quindi quello in che realtà sono io. In realtà sei tu. Quello che descrive questo tu, chiunque sia, di qualunque genere sia, in fondo è uno dei, come dire, complessi più frequenti della nostra epoca. E cioè l'essere dominati dall'esperienza di che capita alle persone che sono vive e che cambiano e che però cambiando incontrano tutti gli svantaggi di questo cambiare, tra cui anche il fatto che appena cambi ti svegli a letto con uno e ti sembrano estraneo. Perché se tu sei cambiato, ma chi è questo? Cosa vuole? Cosa vuole da me? Drammatica, questa immagine è veramente drammatica. Ma è una delle cose, come dire, uno dei racconti più frequenti, sia da parte di chi si sveglia e sente che l'altro è un estraneo, sia dalla parte del povero estraneo che non si rende conto come mai è stato mollato in due secondi netti. Perché? E dice, beh, cosa ho fatto? Mi sono solo aperto gli occhi. Ecco, allora il problema qui è, come dire, come si superano i cambiamenti. Se il cambiamento è lo scopo della vita, cioè se tu stai bene a cambiare continuamente, allora, come dire, dillo prima agli altri. Il tuo amore, a proposito della durata che tu evocavi prima, il tuo amore sarà breve. Devi imparare a desiderare amori brevi, perché il tuo amore sarà breve. Qualunque tipo d'amore, anche il più bello e il più grande, sarà breve, perché inevitabilmente tu o l'altro cambierete e l'amore finirà. A meno che tu alla fine, cioè, qual è la conseguenza di questo nella vita? La conseguenza di questo nella vita è che, come dire, l'inconcludenza affettiva. Cioè tu puoi essere anche felice, però devi rinunciare a qualcosa. Per esempio, devi rinunciare ad avere un legame stabile e duraturo. Se fai un figlio con uno e poi sai che dopo 3 mesi lo lasci, è meglio che non lo fai. Oppure te ne assumi tutti gli oneri. Oppure sei ricco e lo fai lo stesso e poi lo affidi a qualcuno, ma... O fai come Rousseau che li abbandonava, fai come i filosofi, ma comunque in ogni modo ti conviene farlo. Non ti conviene farlo, cioè tu hai una rinuncia da fare se fai quella scelta lì. Il che porta tante persone, per esempio, ad entrare in crisi per questo. Quella modalità lì, il fatto che tu sai che l'amore è breve, lo sai e lo pratichi e non cerchi amori lunghi, ti fa pagare un certo prezzo, il prezzo della instabilità. Quelle persone, quando poi si innamorano, diventano, cioè, svolta. Nel senso che... Certo, queste persone vanno in crisi e possono cambiare modo di amare, cioè cambiano loro, ma non cambiano all'interno di una modalità antropologica, cioè restando esseri materiali, ma cambiano, per esempio, diventando più interiori. Certo. O cambiano diventando più approssimanti. Ma è utopistico, una domanda, è utopistico pensare che ci possa essere anche il caso di cambiare insieme all'altro? No, cioè condividendo il proprio cambiamento e quindi modificare anche l'interazione. Non è utopistico, ma è difficilissimo, perché cambiare insieme all'altro vuol dire complicare in modo doppio o in modo esponenziale la complessità della crisi che uno ha, perché quando uno cambia e vuole sormontare un cambiamento, questo è difficilissimo, è una crisi che deve superare. Se tu una crisi tua, l'esperienza dice che quando hai una crisi, se ti se ti metti da parte e la superi da solo è più semplice. Se la devi superare insieme a un altro che sta superando anche lui la sua crisi, è più complicato. Sì. È più complicato. A meno che la direzione. A meno che l'altro non sia in crisi. No, ma a meno che la direzione, delle due crisi sia identica, cioè che tutte e due, cambiando il loro rapporto, supera la loro crisi individuale. Ma è rarissimo. Io non sono d'accordo che la propria crisi uno se la supera meglio da solo. Voglio approfondirlo sto punto. Ma è come dire, l'esperienza che lo dice. Perché se tu, quando tu sei in crisi, sei poco in grado di. Tu sei in qualche modo più centrato su te stesso. Non c'è dubbio. No? E quindi, cioè, come dire, spesso la crisi è una cosa che tu ti devi affrontare. Implica sul piano dei rapporti sociali, la crisi implica un certo isolamento e una certa separazione dagli altri, di fatto, perché ci sono aspetti della crisi che sono peculiari, solo tuoi, no? E se tu non ne prendi atto, il quadro ti si complica molto, no? A meno che la direzione che un altro prende è uguale a quella che ti serve a te, e facendo quel percorso insieme vi aiutate. Però questo è raro, è possibile, ma è abbastanza raro. Cioè, lo schema più semplice è che uno si ritira, si gratta le sue rogne e poi torna ad avere rapporti. Cambia, cioè, supera un certo stadio personale. Dopodiché, per esempio, può incontrare altri tipi di persone. Perché se uno non cambia prima e deve cambiare insieme con l'altro, ecco, sì. Per esempio, è la difficoltà che c'è nel lavoro di coppia. La difficoltà nel lavoro di coppia sta in questo, nel fatto che tu o i due prendono una via comune e costruiscono un mondo comune come risposta, e quel mondo comune è una risposta reale ai loro particolari problemi, oppure, come solitamente, come il più delle volte accade, quella risposta comune non è una via per risolvere i problemi di ciascuno, che sono diversi, e non ci riescono. Per cui lo schema solitamente invece è: tu decidi cosa vuoi fare, fai un giro per conto tuo e poi incontri di nuovo gli altri. Torno sul discorso del superarsi la crisi da solo. Sai perché mettevo in discussione? Perché mi viene in mente anche quello stato di crisi che uno si isola per viverselo da solo e poi dopo rimane avvoltolato su se stesso e non riesce a venirne fuori, arrivando poi a stati depressivi o a stati di, beh, certo, di non essere in grado di reagire, certo, insomma, no, ma questo e è quindi giustissimo. L'aiuto esterno, questo è un'osservazione giustissima, però tu devi considerare appunto che si tratta, quando succede quello, si verifica qualcosa che non è la giusta solitudine nella quale tu ti metti, ma si diventa isolamento, cioè diventa rifiuto del mondo, non diventa allontanarsi dal mondo per fare la propria parte e poi tornare nel mondo, il che ti fa rischiare, quando ti isoli, di non tornare più nel mondo. Certo, questo, però questo è più tipico appunto di certe impostazioni, cioè di quando uno se ne va non perché ritiene giusto che è meglio fare un giro da soli, ma perché nessuno lo caga, viene respinto e poveretto non gli resta da fare altro che isolarsi. Mandiamo un brano, ricordiamo i numeri? Ricordiamo i numeri, allora numero fisso 051 34 64 58, oppure mobile, i vostri sms o whatsapp al 333 180 94 94. avevo voglia di un po' di musica ambient e quindi l'ho messa su. Del resto, oltre la crisi, si combatte anche in questo modo, con un po' di relax. Rientrando in diretta alle 13.50, quasi in conclusione col nostro appuntamento, voglio sconvolgere i piani. Arrivo io con una domanda incredibile. Così. Aspetta che prima leggo una cosa, ah, prima scusa, della tua domanda. Scusa, non lo sapevo. No, scusa. Niente, era così un moto d'allegria. Scusate, prima non mi sono firmata, mi chiamo Mariangela, complimenti per il programma e per la risposta esauriente, siete molto simpatici, era carina questa cosa. Grazie. Come dire, Mariangela è più che simpatica. Ecco, e poi aspetta Willy, non c'è verso per la tua domanda. Come, oh, lo stesso la farà la prossima volta. Allora, no, aspetta, sempre Giovanna. Oddio, avrò avuto poca fortuna, ma penso anche ai racconti di amici. Sono circondata da incasinati in crisi. Incasinata sono pure io, come vi ho detto. Allora devo fare necessariamente un percorso da sola o posso sperare comunque di poter crescere nel confronto amoroso con qualcuno? Che era un po' quello su cui ti sollecitavo a ragionare. Certo, e farle tutte e due, no? Cioè fare un percorso da soli e contemporaneamente fare un percorso con qualcun altro. Perché noi, cioè, come dire, perché si dovrebbero escludere le due possibilità? Certo, giusto. Non dovrebbero escludersi, anzi, nell'esperienza di chi aiuta le persone quando si trovano in questi frangenti di crisi, dice proprio questo, che quello che ti aiuta è proprio seguire una pluralità di vie di risoluzione. Non solo, ma c'è poi un'altra logica in questo, e cioè che tu, ci sono cose che puoi affrontare da solo e ci sono cose che non puoi affrontare da solo. Ci sono cose che su cui, per esempio, tu ti rassicuri da solo, e ci sono cose che solo gli altri, su cui solo gli altri ti possono rassicurare. Quindi quello che suggerirei io è un parallelismo tra queste due, portarle avanti tutte e due contemporaneamente. E siccome è Giovanna? Sì. E siccome è una donna? No, è Mariangela. No, questa è Giovanna. Questa è Giovanna. E siccome è Giovanna e le donne possono, sembra che sono abili nel multitasking, può fare le due cose contemporaneamente. Esatto, anche perché parlavamo fuori onda, continuando il discorso in onda, sul discorso appunto di farlo insieme, perché tu prima mi hai dato una risposta rispetto a due persone che sono in crisi ed è... E il cui amore è in crisi. Esatto, ma fuori onda dicevamo un'altra cosa, ovvero nel caso in cui è una delle due persone che è entrata in crisi e chiede magari l'appoggio dell'altro che non è in crisi, che magari gli fa vedere quello che è la parte non in crisi e lo aiuta a... Esatto, è esattamente ciò che sarebbe desiderabile quando uno va in crisi, che pur andando in crisi, il suo amore per l'altro non va in crisi, l'amore dell'altro per sé non va in crisi e l'altro nella sua crisi lo aiuta. Allora, Giovanna, comunque, per ringraziarti, scrive: mi abbraccereste il professore, quindi adesso non si vede la radio, però insomma fai conto, Giovanna, che l'abbiamo fatto per te. Cioè ha manifestato per radio un amore di attaccamento. A te. A me. Sì, dopo lo abbraccio io, Giovanna, al professore, non ti preoccupare. Io purché mi abbraccino. Sì, sì. Cioè, noi intanto abbiamo Willy che fa il piccolo alchimista mentre fa regia. No, beh, adesso non si dicono queste cose. Ma non avevi una domanda tu? Esatto, sì, dici no, per richiamarti in onda. Ok, dai che sono partecipe su. Insomma, allora dicevo che noi abbiamo parlato molto del lavoro su noi stessi. Pensiamo anche a chi incontriamo. Nel senso, questa persona ama in questo modo, questa persona ama nell'altro modo. Improvvisamente questa persona incontra un altro o un'altra che gli cambia la vita. Cioè, automaticamente. Un terzo, dici, un terzo. No, incontra una persona che gli cambia la vita. E quindi automaticamente... Mentre sta con noi? No, non mentre sta con noi, mentre ha questo modo di amare consolidato di questi tre, certo, che abbiamo citato, sì, può conoscere o incontrare una persona dal quale non si sa se è corrisposto o no. E che ama a modo suo. Che lui, che gli fa cambiare, non che ha un modo suo, tipo d'amore. Che gli fa, certo, gli dà un'illuminazione, un'apertura o qualcosa che è talmente tanto intenso che... cambia la visione anche all'interno del sentimento stesso. Bravo, è possibile, ma non succede così. Cioè, è possibile. Bravo il contentino. Poi No, ma sì. È verissimo. È possibile, ma non succede così, nel senso che tu ti sei dimenticato un passaggio. Cioè, succede, ma significa che tu incontri un altro che mette in crisi il tuo modo di amare. Sì, per esempio, sto seguendo. Per esempio, tu fai sempre dei conti e ti chiedi cosa mi dà, cosa gli do, cosa mi può dare, cosa no. Incontri un altro che mette in crisi questa cosa qua, perché non fa nessun tipo di conto, è generosissimo, dà tutto subito, d'accordo? Ti mette in crisi e tu potresti cambiare il tuo modo d'amare, ma prima devi attraversare e superare quella crisi. Ma cioè, non è una crisi, potrebbe essere piacevole. No, aspetta un attimo, può essere piacevole. Infatti ci sono crisi positive. Essere una crisi accrescitiva e positiva. Sì, ma tu puoi avvertire anche che è una crisi positiva. Ma però le crisi, anche quelle positive, vanno superate. Anche se vinci il Superenalotto, anche tu incontri la Madonna, se ti mette in crisi, tu capisci che è una crisi positiva, ma prima di arrivare a toccare la Madonna, devi superare la tua crisi. Siamo andati in un terreno scivoloso, come dire, mistico, direi. No, dicevo la Madonna senza nessuna relazione con l'Immacolata mistica. Concezione. Ha scritto l'Opus Dei, una lamentela. C'è arrivato un SMS, WhatsApp da Francesco. Ci potrebbe telefonare in diretta, però, magari. Ma Francesco secondo me ringrazia, no? Anche secondo me. No. Anche secondo me. Volevo dire questo. Intanto era rimasta una cosa in sospeso. Sono i 56, la teniamo per la prossima. Se vuoi te la scrivi, vero, no, Willy? No, perché ce la dimentichiamo. La ricordo. Ricordala, ma te la segni, perché io da qui a mercoledì prossimo ho una testa. Ricordo e me la segno. Allora. Ma posso dire però una cosa nel sì, tempo residuo, ma certo, sulle cose lei può dire sulle cose che in vuole. Sospeso. Sulle cose in sospeso. Le sospensioni hanno a che fare con l'amore, no? Che bella questa frase, mamma mia! Quasi più belle delle mie. Quasi ti abbraccio anch'io, non solo per conto di Giovanni. Io preferirei restare sospeso. Cioè, la sospensione è l'espressione emotiva del desiderio che va verso l'altro e nonostante il fatto che ancora non è appagato, si appaga di sé. Fra le storie d'amore più belle che ho avuto ci sono quelle che non ho mai dichiarato. È vero. Mamma mia. È vero. Cioè, abbiamo Willy oggi che Voi mi fate parlare d'amore, ve ne assumete le responsabilità. È l'emergenza del desiderio. Per esempio, nella nostra società, l'ultima notazione, se il desiderio, così com'è, quel desiderio, gli amori che non ho mai dichiarato, potessero agire sulla nostra vita, il mondo cambierebbe immediatamente. Ah, te lo dico. Caspita. Attelo, di bella rivoluzione. Io sono rimasta senza parole, basta. E quindi. Ah, niente, sigla, appuntamento a mercoledì Aspetta, prossimo. La prossima puntata, però, dobbiamo chiuderla questa cosa esatto. qui. Dobbiamo chiudere il cerchio e quindi arrivare alla crisi che si esplica in tutta la sua potenza e a come. E noi dobbiamo superarla. Sforzarci di opporle. Una efficace impotenza. Bella questa. E anche questa rimane in sospeso. Segna, e andiamo. Ecco. Quindi quest'altra puntata parleremo di questo. Invitiamo le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori a preparare i fazzoletti. A piegare i fazzoletti. C'è qualcuno che ci scrive: ma quanto mi avete fatto divertire. Quindi è diventato un format di intrattenimento. Infatti, eravamo partiti da cose molto. Beh, ma anche noi ci siamo divertiti. Esatto, sì. Anche noi ci siamo divertiti. La prossima volta chiudiamo l'argomento, così uno arriva a Natale con delle belle idee. Di risoluzione. Certo, anche perché a Natale, senza la soluzione di quel problema si sta malissimo. È un casino a Natale, le feste comandate. Grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori, grazie al professor Campione. Grazie, appuntamento grazie. Ovviamente a mercoledì prossimo. Buon appetito o buona pennichella per chi la fa. Ciao a tutti.